9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, dopo la voce calda di Ennio Doris, la voce un po' più chioccia, un po' più da paperotto di Oscar Giannino, che vi saluto. C'è chi, un ascoltatore che mi pinzecchia sempre, mi punzecchia attraverso gli sms, che mi ha chiamato per lungo tempo da Fidac, adesso è un po' di tempo che non si fa vivo, lo saluto a distanza perché lui mi critica sempre. Ma oggi abbiamo dedicato questa trasmissione nel giorno di Sant'Igino, non so se qualcuno si chiami ancora Igino, il nome è un po' vecchio e tradizionale, ma a me non dispiace, Sant'Igino, ha un tema che riguarda in particolare tutti tra voi che sono o proprietari o affittuari di una casa. E quindi, siccome viviamo in un paese dove, come è noto, la percentuale di diffusione della proprietà delle abitazioni è la più elevata tra i paesi avanzati, ben oltre l'80%, e dove però a fianco di questo fenomeno convive una diffusa e crescente negli anni difficoltà di trovare affitto a prezzi liberi fuori da quelli quindi del mercato concordato per tutta una fascia di affittuari che sono giovani studenti, che sono giovani che stanno tentando di formare un nucleo familiare e hanno redditi bassi e con un solo elemento attivo, magari solo con un lavoro a tempo parziale in famiglia, per gli immigrati anche quello è una fascia di crescente difficoltà per gli affitti. Allora bisogna capire come e se le cose cambieranno, ripeto, sia dal punto di vista della rendita per chi è proprietario e deve affittare o vuole affittare, sia dal punto di vista dei proprietari che devono porsi il problema di come cambierà invece la posizione fiscale solo sulle loro case di proprietà, sia dal punto di vista degli inquilini con la modifica del regime fiscale che si prospetta con l'attuazione del nuovo fisco comunale. Qualche pillola informativa, perché prima di arrivare al punto, cioè di capire come cambierà la tassazione sugli immobili col nuovo fisco comunale, qualche riflessione sul fatto che oggi ricomincia la maratona per l'approvazione dei pareri consultivi della commissione bicamerale attuativa per il federalismo, dei 5 decreti attuativi della delega sul federalismo, appunto, che restano ancora da esaminare. E in questi 5 decreti è stata accorpata tutta la parte restante oltre i primi 3 decreti che hanno già avuto il parere della commissione bicamerale. Si è riunito tutti in questi 5. Il primo di questi 5 è esattamente quello in cui si esaminerà il punto di cui ci occupiamo oggi, e proprio oggi il ministro Calderoli incontra i 2 relatori di maggioranza e di minoranza nella commissione bicamerale di attuazione del federalismo per illustrare gli emendamenti del governo al testo che ha avuto il via libera del Consiglio dei Ministri. Ed è un testo che sul fisco comunale, proprio sugli immobili, ha aperto un grande dibattito e ottenuto molte obiezioni. Quali sono i maggiori punti aperti? Allora, voi sapete che nella impostazione del governo l'imposta municipale fondamentale, quella unica che dovrebbe costituire il più dell'autonomia del prelievo comunale, dovrebbe essere l'IMU, l'imposta municipale unica. E su questa IMU le opposizioni hanno obiettato subito che, così come è prospettata dal governo, non garantirebbe l'invarianza delle risorse che sono state promesse ai comuni, 21,5 miliardi, ci sarebbero almeno 2 miliardi e mezzo in meno, quindi i tagli fatti dalla manovra estiva biennale non verrebbero ripristinati. Calderoli replica che dipende da come si fisserà l'aliquota su questa IMU, e l'IMU è un'imposta appunto sulla proprietà, sulla rendita catastale. Si può desumere, è vero che non c'è l'aliquota fissata nel decreto, però si può desumere dai documenti tecnici allegati al decreto che sia più o meno un'aliquota del 10,6 per mille sugli immobili di proprietà interessati, al 5,3 per mille per quelli di impresa e dati in affitto, e questa percentuale è calcolata sulla rendita catastale. Problema: questo significa che bisogna avere un catasto aggiornato, non lo è in 2/3 dei comuni italiani. Su questo il governo dice: noi incentiveremo i comuni ad aggiornare il catasto trattenendo una parte dei valori che emergeranno. Poi, come alle altre obiezioni su questa IMU, le opposizioni dicono attenzione che poiché nell'impostazione del governo l'IMU resta conformata escludendo le proprietà di la prima casa, esattamente come si è stata abolita l'ICI sulla prima casa, estendendo i provvedimenti del governo Prodi al governo di centrodestra, le obiezioni dicono così però si premiano troppo i comuni turistici, cioè quelli in cui si concentrano le seconde case che avrebbero più entrate, e per di più si incoraggia il fenomeno di attribuire la proprietà di seconde, terze e quarte case ad altri membri della famiglia. Come risponde il governo su questo? Perché si rischia anche qua, dice l'opposizione, che ci siano 5 miliardi in meno in questa maniera. Calderoli oggi dovrebbe spiegare un meccanismo antifrode per le intestazioni di comodo degli immobili e proporre un abbattimento dell'aliquota dell'imposta sui trasferimenti immobiliari, che dovrebbero scendere dal 4 al 2% per la prima casa, dal 10 all'8% per la seconda, proprio per contrastare il fenomeno delle intestazioni di comodo. E ai comuni resterebbe per intero l'imposta municipale sul di possesso, ma solo un quinto di quella di trasferimento. Dopodiché ci sono una serie di altre questioni che per il governo sono secondarie, per l'opposizione non lo sono. L'opposizione ha presentato una controproposta globale in cui a questa imposta municipale di possesso in realtà si sostituisce un'imposta generale sui servizi della proprietà immobiliare, in cui oltre alla rendita catastale si cumulano le precedenti TARSU e TIA, quindi l'imposizione sui rifiuti o sull'igiene ambientale. E poi veniamo al punto, quello che ci interessa di più oggi, cioè quello della cosiddetta cedolare secca. La cedolare secca è la maniera tecnica per dire che la nuova imposta che graverebbe sul mercato degli affitti è di un 20% fisso. L'opposizione, e anche l'UDC, aveva chiesto di vararla con un provvedimento autonomo, invece è incardinata in questo disegno di legge attuativo del federalismo fiscale municipale. E qui quali sono le obiezioni? Le obiezioni riguardano il fatto che l'aliquota prevista, che è del 20%, lo ripeto a tutti, non scoraggerebbe abbastanza anch'essa il fenomeno degli affitti in nero, che esiste ed è un problema serio nel nostro paese. Perché non scoraggerebbe abbastanza il fenomeno degli affitti in nero? Perché gli inquilini non avrebbero vantaggio dalla denuncia all'aliquota del 20% secco. E quindi il governo dovrebbe oggi illustrare i particolari della sua risposta a questa obiezione, perché il governo ha detto Calderoli, che in effetti l'obiezione è fondata, e allora però si potrebbe tenere l'aliquota, dovrebbe essere questa la soluzione verso cui ci si incammina, l'aliquota del 20% solo sui canoni, quelli concordati. Invece per quelli a mercato libero si salirebbe al 23%, però destinando il 3% in più, il 23% rispetto al 20% dell'aliquota sui canoni concordati, destinando questo 3% alle deduzioni di imponibile a vantaggio degli inquilini. E quindi l'aliquota sarebbe più elevata dei 3 punti, quella pagata dai proprietari, per pareggiare, ai sensi dei conti dello Stato, il fatto che lo Stato appunto retrocede in deduzione il 3% agli inquilini, che quindi sarebbero a questo punto incoraggiati a, per così dire, denunciare il fenomeno dei contratti in nero, perché ne avrebbero un diretto interesse rispetto al proprio alla propria dichiarazione dei redditi. Io spero di essere riuscito sinteticamente e senza troppi errori tecnici, e contemporaneamente senza eccedere in tecnicismi, a farvi capire, poiché immagino che molti di voi non siano proprio lì a seguire tutti i particolari tecnici dei decreti attuativi del federalismo fiscale, quali sono le caratteristiche almeno di fondo più elementari del nuovo fisco comunale, e a capire come in esso si inquadra questa questione della nuova tassazione sulla proprietà immobiliare. Da una parte c'è chi difende il fatto che in questi anni questa tassazione patrimoniale è stata ristretta con l'esenzione prima casa, dall'altra parte c'è l'opposizione che dice che questo ci ha troppo ristretto i trasferimenti e il governo fa il furbo e tende a ripristinare l'imposizione anche sulla prima casa, e dall'altra ci sono queste due grandi imposte, l'IMU da una parte e dall'altra la cedolare secca, che dovrebbero consentire, o almeno vedremo quali sono le opinioni delle diverse forze in campo e nel mercato, dovrebbero consentire da buona parte una semplificazione e dall'altra anche un meccanismo più trasparente, non solo solo per dare più benzina ai comuni rispetto alle sue funzioni, alle loro funzioni, ma anche per consentirci di stare un po' più tranquilli, un po' meno di diffidare dallo Stato prenditore sugli immobili, perché ricordiamocelo sempre, l'abbiamo già fatto a proposito del dibattito patrimoniale, l'immobile è una parte più evidente della ricchezza dello stock patrimoniale degli italiani ed è la parte che spesso attira di più, diciamo, l'acquolina in bocca allo Stato, e quindi bisogna stare un po' attenti a tutelarla, la proprietà privata. Vediamo allora i diversi pareri in campo. Abbiamo con noi collegati, e di questo li ringrazio, innanzitutto il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani. Buongiorno presidente. Buongiorno. Abbiamo Giuseppe Bortolussi, il segretario della CGIL di Mestre, benemerito, che ben conoscete. Buongiorno Bortolussi. Buongiorno a voi. E abbiamo il professor Francesco Forte, docente emerito di Scienze delle Finanze, editorialista del Giornale e del Foglio. Buongiorno professor Forte. Buongiorno. Allora, Sforza Fogliani, dal punto di vista di Confedilizia e quindi della proprietà, questo nuovo regime, l'IMU da una parte e la cedolare secca, e soprattutto la cedolare secca con questi particolari per incentivare al conflitto di interesse, vi convince, non vi convince? Che benefici e che problemi secondo voi comporterà? Ma guardi Giannino, sull'IMU rimane il grosso equivoco che è creato dall'utilizzare il nome rendita per quanto si riferisse al risultato catastale che viene calcolato appunto dagli uffici tecnici erariali, oggi dall'Agenzia del Territorio. Si chiama rendita perché ha sempre accertato la redditività di un immobile, oggi si continua a chiamarlo rendita, ma in realtà accerta solo il valore degli immobili, e quindi è una patrimoniale, una nuova forma di patrimoniale rispetto alle tante altre che già esistono sotto forma di, per esempio, accertamento del reddito che sia sempre e comunque al di sopra di una certa somma, differentemente viene accertato come esistente in una percentuale della rendita però a valore, quindi del valore degli immobili, l'aumento di categoria che è una surrettizia tassa patrimoniale, eccetera. Sulla cedolare secca niente di contrario a che si crei un conflitto di interesse tra proprietario ed inquilino, se si crede che questa possa essere la strada, e a patto che non sia un modo surrettizio per l'aumento delle aliquote che sono state fino ad ora ipotizzate, anzi dell'aliquota unica che è stata ipotizzata, perché non dobbiamo dimenticare che il Consiglio dei Ministri ridusse l'aliquota unica al 20 per intervento diretto del Premier Berlusconi, con quelle intuizioni che gli sono tipiche. Se si comincia ad azzigogolare tra un'aliquota e l'altra, una cosa progressiva, non progressiva, perché sono balenate anche ipotesi di questo genere, finisce che la cedolare non è più secca come dovrebbe essere, e quindi sostanza che non raggiunge i suoi effetti. Ma il punto principale è perché la cedolare farebbe emergere gli affitti in nero, comunque, come del resto ha già riconosciuto il direttore generale delle finanze, la dottoressa La Pecorella, perché farebbe emergere comunque gli affitti in nero, anche indipendentemente dal conflitto di interessi. E questo è perché la locazione regolare oggi non rende più alcunché. La tassazione, soprattutto locale ma anche erariale, è tale che assorbe, a seconda delle diverse aliquote che vengono applicate agli immobili locati, assorbe circa il 60% del canone, poi ci sono le manutenzioni, gli imprevisti, eccetera, eccetera. Il risultato è che nessuno oggi acquista più un immobile per affittarlo come avveniva fino a qualche decina d'anni fa. Ci si faceva una pensione acquistando un immobile appunto da affittare. Ora la cedolare secca, restituendo redditività alla locazione, farebbe di per sé emergere il nero, e questo è l'effetto immediato, che si raggiunge però con una cedolare secca, che sia veramente secca, al di là di ogni altro espediente. occorre che sia secca, e allora sul piano psicologico si darà un segnale forte che certamente servirà a far emergere il nero. Professor Forte, lei ha scritto più volte su questi argomenti. Il bilancio complessivo, secondo i conti, l'idea che si è fatto per i proprietari e per gli affittuari di questo nuovo regime che si prospetta, è tale che ci perdono rispetto a prima, e che cosa se eventualmente ci sono aggravi, o ci guadagnano quanto e cosa rispetto a prima, secondo lei? Dunque, io credo che ci sia molta superficialità e incompetenza in quelli che si oppongono a questa cedolare secca, ma sia consentito di dirlo anche a quelli che si illudono. Questo strano meccanismo della detrazione del 3% serve a incentivare l'emersione, perché la cedolare secca interessa essenzialmente i proprietari di fronte al fatto che pagando un'imposta moderata sono sicuri di un contratto registrato, e in caso non infrequente purtroppo di insolvenza degli inquilini sono in grado non tanto di pretendere il pagamento, cosa che spesso non accade, quanto di riuscire a sbarazzarsi della persona che abusivamente sta nell'immobile e di cui il proprietario deve pagare anche le spese condominiali. Questo è un grossissimo problema. Il proprietario che fa questi contratti in nero, salvo se disponga della 'ndrangheta o della mafia, ha questo rischio. Al 20% c'è una decisa convenienza a registrare i contratti, e quindi i proprietari a questo punto hanno la convenienza. Inoltre, poiché una parte di loro lo fa, a questo punto si restringe l'area dei contratti in nero o metà in nero, che è un problema analogo, e quindi è più facile il controllo di questi contratti da parte degli altri. Che l'inquilino poi detragga il 3% mi sembra solo una furbata per addossare all'IRPEF un'ennesima erosione tributaria. L'IRPEF è a circa 45 miliardi di esoneri di vario genere, e quindi è ormai un tributo da riformare, perché è privo quasi di senso dal punto di vista tecnico e distributivo. Allora, dicevo, quel 3% certo non influisce. Poi chiunque abbia studiato un modestissimo manuale di economia sa che esiste la traslazione delle imposte, quindi quel 3% in più entra nel canone d'affitto, e per conseguenza colui che lo detrae diciamo ha un beneficio minore dell'aumento del 3%, perché lui lo detrae dalla base imponibile, immagino, e normalmente quindi non recupera tutta la somma ma solo una parte. In questo modo gli enti locali ottengono il risultato a cui sino adesso hanno aspirato, che teniamo presente che c'è un moltissima evasione dovuta ai comuni, perché i sindaci e i loro assessori sono spesso complici del mancato accertamento del reddito degli immobili, soprattutto quando si tratta di loro elettori. E quindi è chiaro che molte volte i comuni sanno benissimo dove è il nero, tra l'altro in immobili magari parzialmente abusivi, se non totalmente tali. Però non gli fa comodo accertarlo, mentre invece è possibile farlo per un comune, perché c'ha un mucchio di strumenti locali che lo Stato non ha, e quindi questa devoluzione è di carattere fondamentale. Però i comuni hanno una cattiva volontà di accertamento e quindi fanno discussione sul gettito, perché non hanno alcuna voglia di andare a vedere immobili dove veramente sono. Io devo interrompere il professor Forte perché c'è la pubblicità. Devo dargli ragione su due cose facendovi riflettere. perché molte, in molte trasmissioni ci è capitato di toccare sia il punto, ricordate tutte le trasmissioni a proposito del nero edilizio in Campania, in Sicilia, quando facevamo le puntate su Ischia e così via, e ogni volta ci trovavamo di fronte a dover contestare la situazione di sindaci che non sono perfettamente consapevoli, ma spesso sono stati eletti sulla base di tenere gli occhi chiusi, li contestiamo dati alla mano. Quindi la mia opinione è che il professor Forte su questo abbia molto ragione, perché gran parte del fenomeno si spiega grazie a interessi conniventi e rappresentati localmente nelle strutture istituzionali, che quindi vanno risolti così, dal basso. Secondo, il meccanismo del contrasto di interessi che da anni viene praticato agli italiani come la cosa fondamentale, chi dice consentiamo a tutti di detrarre tutte le fatture perché così ci sarà il contrasto di interessi e sarà la via fondamentale per la lotta all'emersione, a me pare che anche in questa occasione sia molto più demagogico che reale, perché appunto la traslazione sul prezzo finale c'è sempre, e questo è il meccanismo che di solito incoraggia il nero nasce così, perché quando c'è un eccesso di imposizione che gonfia ulteriormente un costo elevato, la gente si organizza come può per abbatterlo, e quindi da una parte ci sono i predicatori di facile emersione col contrasto di interessi, dall'altro c'è l'effetto concreto che questo contrasto di interessi, parolina magica che viene sempre ripetuta, avrebbe, e quindi diffidare della demagogia. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, stiamo esaminando il nuovo sistema di imposte che dovrebbe incardinare il fisco comunale sugli immobili, quindi l'IMU, l'imposta unica municipale che è costituita su questa ipotetica rendita catastale col problema dell'aggiornamento del catasto nel nostro paese, e dall'altra la cedolare secca. Abbiamo Giuseppe Bortolussi, a cui chiedere qual è il suo punto di vista, perché ci già dimestre ha molto elaborato, ha fatto girare delle cifre, quindi adesso gli chiediamo di illustrarcelo. Sentiamo innanzitutto la telefonata di un'ascoltatrice, Emilia, che ci chiama da Napoli. Prego, Emilia. Salve, buongiorno a tutti. Allora, sinteticamente, io sono una piccola proprietaria, intanto ritengo che siamo sempre stati proprio ideologicamente perseguitati, soprattutto rispetto agli affitti commerciali che prevedono veramente delle cose assurde per i proprietari, penalizzanti, vedi l'indennità di avviamento, non so, di uscita quando l'inquilino va via, insomma comunque una serie di cose veramente penalizzanti, e tra l'altro credo che per gli affitti commerciali la cedolare secca non sia prevista. Poi volevo dire che io personalmente, per potermi permettere di stare in una casa in affitto, io come conduttrice, diciamo, in una casa in affitto, perché non posso stare in una mia di proprietà in quanto si trova lontano dal luogo dove lavoro, devo in effetti metterci due affitti miei che percepisco per poter pagare l'affitto della casa dove sto, perché chiaramente circa il 40% attualmente se lo prende lo Stato, e io come conduttrice non ho niente da scalare dalle tasse, invece come proprietaria ho da dare il 40%. Questo non mi sembra giusto, perché io percepisco una piccola pensione alla quale si aggiungono delle piccole proprietà, e quindi stare in una casa di affitto per me diventa complicato e difficile. E poi io mi auguro che questa cedolare secca intanto passi, poi che sia una cosa veramente secca e non complicata, poi che sia definitiva, per cui non ci troviamo magari fra 5 anni a dover rivedere il tutto, e poi mi auguro anche che faccia diminuire un po' gli affitti, perché a questo punto, per esempio a Napoli, gli affitti sono altissimi, ma si può anche capire che un proprietario, dovendo lasciare il 40%, dico il 40%, può essere un po' di meno, però diciamo facciamo una media del 35%, del 39%, magari chieda di più di affitto per poter poi avere al netto quello di cui ha bisogno. Allora, il problema posto da Emilia, che ringrazio, è esattamente quello del bilancio ipotizzabile di questa svolta complessiva del prelievo sul mattone, e appunto a questo si è applicato Giuseppe Bortolussi. Con quali risultati? Che si può dire con una ragionevole certezza? Chi ci guadagna e quanto? Sì, intanto chiariamo una cosa però, rispetto anche a quello che diceva questa ascoltatrice, che questa legge, questo decreto attuativo riguarderà gli immobili ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche, e questo riduce

il proprietario non si sentirà, secondo me, più di sfidare i rigori della legge, che in questo caso sembrano grida manzoniane a volte, ma sono molto rigorose, poi le sanzioni sono molto dure, molto consistenti, non si sentirebbe di sfidarle avendo questo notevole vantaggio. Mi permetto di dire anche che per un sostenitore in generale del vantaggio esattamente di questo ultimo effetto descritto da Bortolussi per gli effetti di aliquota piatta, anche per l'imposizione in generale, anche sui redditi, il sottoscritto la pensa così, io penso che se toccheremo con mano che quello che indica Bortolussi e forte sarà l'effetto generale, magari diminuiranno anche le obiezioni alla flat tax sui redditi, però c'è chi a questo obietta invece che naturalmente proprio l'aliquota unica e secca è una ingiustizia. No, però Giannino, mi perdoni, posso? Certo, deve. Noi parliamo, e il professor Forte lo può spiegare molto meglio di me, l'articolo 53 parla che il nostro sistema tributario è informato a criteri. Esatto. Criteri, non è che di progressività. Deve essere sempre progressivo. Ed è questa la risposta che noi diamo, però sentiamo, perché anche tra gli ascoltatori ci sono obiezioni. Sentiamo per esempio Dario da Napoli. Prego Dario. Buongiorno Giannino e grazie per l'opportunità. Mi dispiace per l'esposizione, insomma, proverò a rendere l'idea. Non credo sia, è vero, l'articolo 53 parla di criteri intrinseci di progressività dell'imposta, sì. Ma il problema è la capacità contributiva, secondo me. Per cui sottrarre una parte di rendite, perché quelle immobiliari sono sostanzialmente rendite, a flussi di gettito impositivi, secondo me non risponde. Della capacità contributiva. Quindi lei dice meglio tenere il criterio per cui si paga l'aliquota progressiva per IRPEF come oggi, per essere chiari. Non solo, se c'è invece da toccare criteri di utilizzare strumenti come l'aliquota secca, secondo me va utilizzata non per redditi fondiari immobiliari, ma per redditi per esempio di impresa. D'altronde credo che la convenienza generata dalla imposta dalla cedolare secca sulle locazioni servirebbe soltanto a rigettare sul mercato immobiliare investitori che non farebbero altro che rialzare il mercato immobiliare, che in questo momento invece sembrerebbe calmierato. Credo che sia questo il criterio, diciamo, per cui secondo me la cedolare secca non funziona. Benissimo. In ogni caso voglio solo dire, io sono un commercialista, avrei degli esempi, per cui intanto gli esempi fatti da Bortolussi mi sembrano tutti strani, chiedo scusa, ma dipendenti commercio a 30.000 euro che ricevono canoni di locazione, da noi, io chiamo da Napoli, ce ne sono pochissimi. Credo invece che piccoli imprenditori commerciali che magari nel tempo hanno, forse in virtù di un fisco allegro, sono riusciti a fare importanti proprietà immobiliari, ne riceverebbero fin troppo beneficio. Quindi lei dice in realtà la cedolare secca è una mano ai furbi. Sentiamo come risponde il professor Forte. Professor Forte? Sì, dunque, intanto mi sembra che l'effetto della cedolare secca non sarà di far salire gli affitti, ma di farli scendere, soprattutto nel medio e lungo termine, perché sarà più conveniente fare questi investimenti, in particolare in abitazioni. Naturalmente io ritengo che ci sia una certa distorsione, cioè che si sarebbe dovuto applicare o si dovrebbe applicarla questa cedolare secca anche agli esercizi commerciali e naturalmente in particolare agli esercizi misti, cioè quelli che sono in parte uso abitazione, in parte uso ufficio oppure appunto negozio eccetera, perché in questo modo sarebbe ancora più conveniente l'investimento personale nello sviluppo di un patrimonio edilizio. Rendiamoci conto che il nostro patrimonio edilizio è vecchio e molte volte conviene utilizzarlo, metterlo sul mercato a reddito con appunto lavori di manutenzione straordinaria solo se il rendimento è pari a quello di mercato. E i calcoli normali per una persona che paghi il 40%, cosa non difficile, a 75.000 euro che ci si arrivi, più l'ICI e le spese e i rischi, molte volte il gioco non vale la candela. Quindi noi abbiamo in Italia un'enorme quantità di beni immobili, particolarmente nei centri storici, per esempio come Napoli, ma anche Torino, meno Milano, perché per sua disgrazia è stato in parte fortuna, ma allora disgrazia, fu pesantemente bombardata nel centro storico. Diciamo che comunque c'è questo vecchio patrimonio da riconvertire. E abbiamo detto più volte che in Italia questo freno all'aggiornamento del patrimonio edilizio è tra l'altro una cosa che ha colpito anche pesantemente la storia delle costruzioni, quindi con una ricaduta in uno dei settori che doveva essere tra i più anticiclici, quello che più poteva dare per arginare gli effetti della crisi, e invece gli effetti indotti esattamente dalla somma del prelievo fiscale sulla proprietà immobiliare ottiene anche questo effetto di avere frenato. Siamo il paese avanzato in cui le costruzioni hanno dato il minor contributo, non solo non hanno ripreso, ma sono tornate ad avere il segno meno anche nel 2010 che hanno avuto nel 2009-2008, e questo è l'effetto del fisco predatorio, perché il fisco è predatorio e ottiene quei questi begli effetti. Abbiamo ora le informazioni sulla circolazione stradale e poi il punto di vista del SUNIA, che è uno dei sindacati che si occupano degli affittuari. Eccoci qui, siamo tornati in studio, abbiamo con noi Stefano Chiappelli, che è segretario generale del SUNIA di Milano, componente della giunta nazionale. Che cosa vi aspettate e che cosa temete, se c'è qualcosa da temere della configurazione attuale che abbiamo tentato di illustrare della cedolare secca sugli affitti di cui si discute, Chiappelli? Intanto buongiorno a tutti. La nostra posizione sulla proposta del governo è una posizione molto critica, nel senso che quello strumento non affronta, a nostro avviso, i due problemi essenziali. Uno, di una riduzione degli affitti che colpiscono pesantemente i redditi delle famiglie italiane. La seconda, che non si mette in campo una proposta di possibilità di combattere l'evasione e l'elusione fiscale che c'è nel settore. Noi riteniamo che la cedolare secca sia uno strumento utile, però abbiamo avanzato due proposte al governo di modifica. Intanto noi riteniamo che questo strumento debba avere un'aliquota inferiore a quella proposta dal governo, e che soprattutto questa aliquota deve essere applicata solo ai contratti a canale concordato, ossia quei contratti che sono frutto di contrattazione tra le parti sindacali, sociali, proprietari, inquilini, e che devono avere un livello degli affitti inferiore a quello del mercato. E la seconda cosa è che bisogna accompagnare una manovra che favorisca, per esempio, la possibilità all'inquilino di poter dedurre una parte dell'affitto che viene corrisposto. In questo modo, secondo noi, si favorisce. Quindi voi siete favorevoli al 3%? Noi diciamo che le ultime proposte di modifica del governo vanno nella direzione non tanto nella percentuale di quello che noi avevamo proposto, ma rimane comunque il fatto che si favorisce comunque la grande proprietà. Se leggiamo i giornali ci accorgiamo che la proposta del governo va a favorire soltanto i proprietari che hanno redditi superiori ai 40-50 mila euro, e non favorisce per esempio il piccolo proprietario che ha l'unico alloggio di sua proprietà e che quindi da questa manovra non avrebbe comunque un'agevolazione. Però lei ha sentito Bortolussi si dice il contrario secondo i numeri che hanno formulato. I numeri sono quelli che vengono pubblicati sui giornali e sui quotidiani, voglio dire, noi leggiamo attentamente i giornali, ci sono, voglio dire, schemi che ci dicono che le cose che diciamo noi sono così, nel senso che a Milano, per esempio, i proprietari di casa sostengono il piccolo proprietario che al limite, voglio dire, di 20.000 euro di reddito non c'è, voglio dire, un'agevolazione da parte del proprietario. Invece come se c'è un interesse rispetto ad un proprietario che ha redditi più alti. Ma il punto vero è questo: noi riteniamo che la modifica che stanno facendo e proponendo, voglio dire, il governo, le forze di maggioranza, affrontando anche il problema di una deduzione a favore dell'inquilino, riteniamo che la nostra proposta ha cominciato a fare, voglio dire, breccia, nel senso che è impensabile pensare ad una battaglia sull'evasione fiscale, una battaglia per fare emergere, voglio dire, il cane in nero, se non c'è un conflitto di interessi positivo, uso questa espressione, tra proprietario ed inquilino. Io capisco, vede, lei giustamente ripropone quello di cui parlavamo prima, cioè io penso davvero che lei, la sua organizzazione dice: noi teniamo la cedolare secca solo per gli affitti concordati, non per il mercato libero, e però dobbiamo assolutamente accrescere il conflitto di interesse. Il conflitto di interesse significa più prezzo che si trasla su il canone, e oltretutto con la cedolare secca, secondo me, mi permetto di obiettare, lei ha un'organizzazione rappresentativa dietro, io sono un cretino qualunque, però mi permetto di obiettare che con questa impostazione solo rivolta al mercato dei canoni concordati, e in più con un accrescimento dell'eventuale quota anche oltre il 3%, che è poco più che una concessione demagogica, se posso dire, al conflitto di interessi, la mia opinione è che si otterrebbe esattamente l'effetto opposto rispetto a quello che vi proponete, perché la somma della traslazione della parte destinata a conflitto di interessi sul canone da una parte, e dall'altra riservare la cedolare secca solo ai canoni concordati, inevitabilmente porterebbe il più dei proprietari a dire: signori, ve lo prendete con un canone eccetera eccetera, e il più degli inquilini dovrebbero accettare ancora canoni non emersi, diciamo così, nella parte nera degli affitti. È inevitabile credere che progressività e conflitto di interessi siano la via per far emergere. È una visione, dal mio punto di vista, virtuistica, penalizzante dell'investimento proprietario. Il proprietario non è una specie di paperone col monocolo alla George Grost, nel nostro paese soprattutto, in cui oltre l'80% degli italiani ha investito nel mattone. Io questo che non capisco. Da una parte diciamo che bisogna essere felici di questo, che è una forza del paese, che ci ha dato resistenza anche di fronte alla variabilità degli andamenti patrimoniali e dell'esposizione debitoria di tutti gli altri paesi nella crisi. Dall'altra diciamo: brutti paperonacci, adesso vi bastoniamo, lo Stato vi bastona. Perché dal punto di vista rimaniamo caratterizzati da un dibattito così impostato, Sforza Fogliani, secondo lei? Ma perché vi sono naturalmente delle vetere concezioni che portano a questo. Soprattutto poi la situazione di Milano è tutta particolare, e lì i canoni dei contratti, diciamo concordati, il termine esatto di legge è contratti agevolati, è stato fissato ad un livello assolutamente assurdo, e di contratti agevolati non ne sono stati conclusi che pochi, quindi la visione di Milano è completamente distorsiva. Ma vorrei rifarmi un momento a quello che diceva il commercialista di Napoli, se posso. Certo. Il commercialista è contrario alla semplificazione e va bene, però dimentica la questione essenziale della cedolare secca. La cedolare secca servirebbe a risolvere un problema di carattere generale. Non dobbiamo continuare portatori di una concezione del proprietario di casa come quello che veniva appunto illustrato col monocolo eccetera. Il proprietario di casa oggi è un piccolo risparmiatore nella stragrandissima parte dei casi, che non affitta più perché se deve fare qualche lavoro di ristrutturazione, cambiato l'inquilino, non ha più alcun vantaggio da nessuna agevolazione, da nessuna situazione che possa indurlo nuovamente ad affittare. Gli immobili sono sfitti non perché il proprietario voglia fare un dispetto al potenziale inquilino con tutte le tasse che si pagano, sono sfitti perché sono sfitti quelli che richiedono dei lavori di manutenzione che sono più costosi dell'affitto che si ritrarrebbe per anni e anni. Quindi la cedolare secca va valutata soprattutto per l'effetto di riapertura del mercato che provocherebbe. La condizione è, come diceva giustamente Bertolucci e anche il professor Forte, che apprezzo entrambi da tanto tempo, la condizione è che sia veramente secca, che non la si rovini con degli arzigogoli che purtroppo invece stanno venendo avanti, conflitto di interessi o non conflitto di interessi, progressività o non progressività, differenziazione delle aliquote, la cedolare finirà per non essere più la cedolare secca come la si è chiamata e come giustamente lo ricordava Bertolucci, tutti i programmi dei maggiori partiti prevedevano non sarà più secca e non servirà più a niente. Bene, vedremo adesso in questi giorni alla Commissione Attuativa per il Federalismo se da secca diventerà grassa, temo anch'io naturalmente, perché la concessione alle tesi imperanti per cui progressività e conflitto di interessi sarebbero la via per la virtù fiscale invece che la via per protrarre gli troppi aggravi del fisco con gli effetti che conosciamo, secondo me è molto rischiosa. Sentiamo ancora un ascoltatore, Floriano da Firenze, brevemente. Floriano, lei come la pensa? Sì, buongiorno, sì, io la penso esattamente in maniera opposta dei suoi ospiti. A me mi sembra di vivere il mondo di illusi. Se pensate che davvero i proprietari dicano a un affittuario, vieni qua che siccome mi hanno diminuito le tasse ti abbasso il canone. Ma davvero pensate che vada così? E invece come dovrebbe andare, secondo lei? Con più tasse, con più tasse, con più tasse scendono gli affitti, secondo lei? No, con più tasse no. E allora rispetto a oggi, rispetto a oggi, come facciamo per l'emersione se non abbassandole? Mi risponda. Ma secondo me. O lei è contrario ad abbassarle per principio? Perché lei dice che chi è proprietario di un immobile ne deve pagare ancora di più. Perché questo è il punto, guardi. Se lei mi ha detto che con le alte tasse c'è il nero e bisogna contrastare il nero, e io sono d'accordo perché ho tanti figli di amici che non trovano un affitto per le loro tasche, rispetto a oggi, come facciamo a farlo diminuire se non abbassandolo? No, ecco, io infatti non stavo dicendo questo, no, assolutamente, guardi, che se serve per far emergere il nero io posso essere anche d'accordo su questa cedolare secca. Allora mi scusi, perché non avevo capito, ho alzato la voce. No, ma non è sicuramente un modo per abbassare il canone, ecco, questo no di sicuro, non ci illudiamo di questo, io questo stavo dicendo, magari si potrebbe inventare qualcosa, non lo so, dove magari i contratti già in essere, oppure i futuri, l'inquilino stesso presenta l'agenzia delle entrate, io pagavo 600, visto che il proprietario gli sarà diminuito le tasse da 40% al 20%, ho diritto a 500 euro, devo pagare 500 non più 600. Ecco, allora in questa maniera sì, però se si aspetta che di sua spontanea volontà però il proprietario... Ho capito. Allora, lei ha un'obiezione sul fatto che solo abbassando dice lo incorpora solo il proprietario, però ripeto, abbiamo oggi spiegato che la parte destinata a contrasto di interesse, quello che lei chiede in tasca come deduzione all'inquilino, si trasla sulla somma totale del canone, quindi a quel punto gli affitti aumentano, questo è poco ma è sicuro perché funziona così. Comunque, come vedete, abbiamo fatto bene a occuparcene perché i punti di vista sono diversi e contrapposti, grazie ai nostri ospiti continueremo a occuparcene perché la casa è un problema irrisolto fondamentale degli italiani, perché ci si perde a essere proprietari e non si trova se si vuole essere affittuari. Vedremo come esce dal Parlamento, appuntamento a domani, linea al Generale Radio.